later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli tutto scorre nella più pigra indifferenza, K e Drago si ritrovano in un mondo parallelo. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Pronto? Sì, sì, sì. Ah, ok, va bene. Pronto? Aspettavo giusto la tua chiamata perché mi hai fatto idea. Sì, che bene, bene. No, sto lavorando abbastanza. Sì. No, no, d'accordo. Abbastanza bene, sì. Ok, però allora ci dobbiamo vedere, quindi. Sì, ok. Tardi. Non so se hai già parlato con K tu. Ah, no, sta parlando. Più tardi, okay. Più tardi sono tranquillo. Ciao, ciao, ciao, ciao. No, adesso devo fare. Sì, vabbè, ti chiamo dopo, ok. Va bene, ciao, ciao. Il capo, allora tu con Belzebini sei d'accordo? Sì, ci si vede alle 3 all'Holiday Inn vicino all'autostrada e poi semmai partiamo da lì, insomma. Ma c'è anche Irina? Non lo so. Come non lo sai? Sai che io vengo solo per Irina. Vengo solo per Irina, Drago, non me l'ha detto. Ma tu non gliel'hai chiesto? No, ma scusa, ma tu con chi eri al telefono? Ero con Lucifreddi, se sapevo che tu non glielo chiedevi a Belzebini l'avrei chiesto a Lucifreddi. Sì, Lucifreddi e Belzebini. Non mi sembrano cognomi tanto rassicuranti. È la gente con cui siamo costretti a trattare, capo. Lucifreddi e Belzebini. Dai, non siamo mica lì nel coso, come si chiama, il codice da Vinci. Di che cosa ti preoccupi? C'entra il codice da Vinci? Ah sì, i nomi, Lucifreddi, Belzebini. Prendiamo la mia macchina o la tua? Fa lo stesso, dai. Allora prendiamo la tua, va? Sì, però dov'è che l'abbiamo parcheggiata? Ieri. Non so, ieri dove l'hai lasciata? Non so, aspetta, siamo arrivati a mezzanotte, no? Mi sembra di sì. Ma sai che non mi ricordo niente di ieri, ma proprio niente. Aspetta, aspetta. Cosa? Adesso mi ricordo. La mia macchina è fuori dalla fabbrica di polli da mesi e mesi e noi siamo dentro la fabbrica di polli e questo non è altro che un sogno. E quello lì cos'è? Non c'è un nessuno. Tentativo di cos'è? Cos'è? Drago, sta zitto, Belzebini, per favore. Un sogno. In realtà è un esperimento di astrazione di coppia riuscito quasi perfettamente. Sì, quasi perfettamente. Quasi. C'è stato il contrattempo della macchina. Potevamo prendere la tua. Ma dov'era? Che ne so, sarà parcheggiata sotto un albero vicino a casa tua. E poi chi erano Lucifreddi e Belzebini? Non so, due che dovevano darci un lavoro. Poi c'era Irina, non so. Ma esistono davvero? Non lo so, non so niente. Ma non era per un lavoro da animatore in una spiaggia romagnola? Ah, già, forse sì. Ah, proprio il lavoro che fa per noi. La fabbrica di polli! Polli da spennare. Ma perché? Se non si gioca a soldi, ditemi voi come si fa a creare un po' di suspense. Se poi a vincere sono sempre io, che si arrangino, che si allenino. Il bagno Pino, bagno di gloriosa tradizione trentennale sulla riviera romagnola, fornisce ai suoi clienti ogni tipo di intrattenimento. Se al torneo di boccia c'è in palio qualche soldino, che male c'è? E se gioco pure io che do il nome al suddetto bagno e poi vinco, ditemi voi che male c'è? Ci vorrà pure un nemico da combattere. Certo, oltre al torneo di boccia ho messo su pure quelli di ping pong, frisco la chiamata, risico, macchinine radiocomandate, scacchi, beach volley, ma anche un semi clandestino a un turno di poker. Poi saremo ben un posto dove ci si diverte come si deve. Lascia stare che poi vinco sempre sistematicamente io a ogni torneo. Ci sono settimane che tra premi e iscrizioni porto a casa più soldi così che con le focaccine al crudo da bar lo vogliamo piantare col luogo comune del romagnolo che sa solo nuotare e provarci con i clienti. Io qui ci sto tutto l'anno, qualcosa d'inverno dovrò pur fare. E allora mi metto lì e con i miei cugini, quelli della discoteca su, dell'interno, e quelli degli hotel a Ferrara. Si fanno due tiri a beach volley, un giro con le macchinine e qualche lezione con un copiere di Monte Carlo che sa usare bene specchietti e pennarelli segnacarte. Perché la smettano le mogli di protestare. Innanzitutto è un'operazione di onestà verso i miei clienti. Il ricarico sui tornei di carte è decisamente più basso di quello sulle focaccine. E poi, se la notte non glieli tenessi lontani io i mariti, impegnati a giocarsi il Rolex sul tavolo nel retro, come farebbero proprio loro, le mogli, a rinnovare il luogo comune più antico di queste spiagge? Come farebbero ad andare a letto col mio cugino, l'ultimo, quello più spiantato, quello che fa il bagnino? La notte qui dentro è sempre la stessa e l'ora non cambia e non cambia la messa. Puoi fare pensieri di pura evasione, ma poi resta sempre la stessa scansione del tempo perduto qua giù. Si va, si parte, si atterra su Marte, si sogna la via più breve che c'è. Si sta in disparte, si attende un segnale che ci può salvare dall'immobilità. La fabbrica di polli. Salve, sono il confessionale elettrico della cappella di San Gallo. Ultimamente mi sento piuttosto trascurato nella sfera affettiva dai miei fedeli. Nessuno ha più voglia di inserire un gettone sagomato di difficile reperibilità nella mia fessura sagomata di altrettanto difficile reperibilità. Peccato, perché io sono un onesto confessore, a conoscenza di tutte le formule assolutorie associabili a tutti i peccati, i fatti e le omissioni. Venite ogni tanto a trovarmi, inserite il vostro gettone nella mia fessura. Amen. Spera. Spera. No, K, fermati, non fare così, dai, non fare come Totò, ferma il collo. Ciccio pasticcio, chicken head. No, manca, lui non c'è niente da fare. Apollo, dai, cerca di fermare K, tu che puoi. No, ma ormai non posso più. Perché? Ciccio pasticcio, K, allora. Dai, pensaci tu. No, dai, quando un uomo comincia a fare ciccio pasticcio a ciclo continuo, vuol dire che la polizzazione ormai è arrivata alla fine. Ah, sì? La polizzazione definitiva è vicina ormai. Mi spiace per voi. No, ma scusa, per voi. Io non faccio mica ciccio pasticcio. No, è ciccio pasticcio e coco. Cosa c'è? No, no, io vi lascio i vostri guai, non voglio averci a che fare. Io ho anche le mie faccende da sbrigare, che ormai stanno andando tutto a catafascio. Non danno più la prossettina, la danno un giorno sì e l'altro neanche, quindi... Ciccio pasticcio, coco. Che cosa succederà adesso? La pollizzazione di K e Drago avrà un lieto fine, oppure no? E se no, cosa, perché, quando e dove? Quando? Domani a mezzanotte. Dove? Su Radio 3. Cosa? Il prossimo monolitico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Bar-u-men.